di lottare, sono stanche di abitare nel cemento, di dar forza ad ogni singolo mattone ed avere in cambio un fuoco spento. Le mie radici sono chiuse in un bagliore, ma hanno sorriso per un bacio dato al vento. Hanno capito che tra il torto e la ragione molto spesso c'è l'amore. E dico buonanotte a chi non sa sbagliare, per il colore di un sogno, l'odore del mare. Buonanotte a chi fugge per non ricordare e si veste d'incenso per far male. Adesso spendo ogni ridicolo pensiero, ogni lacrima che uccide un sentimento, ogni genere di gabbia messa in piedi per le solite ragioni di mestiere. Le mie radici sono stanche di lottare contro il nulla, contro l'aria e contro il tempo. Stanche di lottare, stanche di lottare. Le mie radici sono stanche di cullare mille sogni che non trovano il momento per rispondere presente, svegliare finalmente questo cuore. Le mie radici sono lampade di sale, sono specchi che riflettono il silenzio, sono oceani di sole, musica e parole, libri per viaggiare. E dico buonanotte a chi non ha rispetto per il colore di un grido che non ha mai letto. Buonanotte a quel mondo che non sa parlare e si veste d'incenso per far male. Adesso spengo ogni ridicolo pensiero, ogni lacrima che uccide un sentimento, ogni genere di gabbia messa in piedi per le solite ragioni di mestiere. Le mie radici sono stanche di lottare contro il nulla, contro l'aria e contro il tempo. Stanche di lottare, stanche di lottare. Dal buio della realtà è il cuore che sta volando lontano, lontano, lontano, lontano, lontano da qui. Adesso spengo ogni ridicolo pensiero, ogni lacrima che uccide un sentimento, ogni genere di gabbia messa in piedi per le solite ragioni di mestiere. Le mie radici sono stanche di lottare contro il nulla, contro l'aria e contro.